dice, muovati che si stai troppo in linea, mi scadano i minuti da Windows. Un attimo, mi stava lavando le ascelle. E che annaggio poco, mi ci nascono i fungi. Oh, ma scusa. Sembra al lavoro, mi volete, che cosa? Un attimo di relax. Scusa, in 30 anni da onorato servizio una doccia non l'ha mai fatta. Ti ho già spiegato che l'acqua massicca la pelle. Comunque, buonasera e benvenuti a tutti i cari pervertiti dell'hotline di Felicetta. Iamo ancora prima telefonata, che è tardi e Meluzzo mi aspetta. Buona Felice! Sì, come ti chiami, bel giovanotto? Signor il Grando, chiamo di Cosenza, Casale, e 96 anni. Sei appena maggiorenne. Che ti serva? Siccome se segno un bedito perché l'hai perso in guerra. E com'è successo, Gioia? Ma hanno minato una bomba mezzo là, convinto che erano tuk track e niente invece insomma. Che fortuna, proprio là la viene interessa bomba. Sì, insomma, volessi che tu mi facessi da infermiera qui alla casa mia. Ti sogno 300 euro un mese. Infermiera? Alla casa tua? 300 euro un mese? E che ti credi che sei un asolo? O la vedi più rumena, non mi capi? E nemmeno se ti avrà accesso un litro i sangue. Sì, non mi hai visto di suora e vai ad Arcore a fare i festini. Ma per favore, passatemi un'altra telefonata, che questi pervertiti stasera hanno voglia. Buonasera, signor Pino, chiamo dalla nostra bella Cosenza. Pino, cosa fai tu nella vita? Faccio il conduttore televisivo. Ma forse Pino Gigliotti? E certo, figlietta mia, ti voglio ingaggiare per essere la mia valletta. A permette, signora. Ma vita di cazzo di ieri, come devi pagare ancora c'è prestazione? Pino, ecco cosa, pure queste figure merda in diretta. Allora, per convincerti, ti faccio fare una bella serenata al nostro Pier Francesco. C'è Francesco, Pier Francesco! Hai scelto me! Com'era bella, Felicetta mia! Chi minni, chi faccia, chi culo, via! Chiudetemi questa telefonata che mi aspettano, vogliono mio. Ma non andate a portare a McDonald's. Ecco, e a fare un giro con cosa. Ma non con questo vi saluto, brutta massa di pervertiti. Ah, e più parole che non siete altro. E ne sentiamo presto, ma andateci piano con la vostra Federica. E ricordate, Felicetta è sempre qua che vi aspetta.